Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. E questa, lo leggo perché non me la ricordo mai a memoria, è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come raggiungerci? Beh, semplicemente con gli sms 349-238-6666 oppure con il mio account di Twitter @MartaCagnola. Ci sono anche gli hashtag cancelletto ISDV, come le iniziali di Il Sabato del Villaggio, e cancelletto RadioTube. Però sentite che c'è qualcosa di diverso, lo sentite nell'aria? Sono convinta che lo sentiate dal rumore di sottofondo. Siamo finalmente anche noi al Salone Nautico di Genova. Cioè, c'erano tutti i miei colleghi in questi giorni, mi sono chiesta perché noi no, ma oggi ci siamo anche noi. Per questo vi ho detto mandatemi gli sms, è un po' più pratico che i whatsapp. Qua faccio un po' fatica da Genova a vedere i whatsapp, quindi mandatemi gli sms al 349-238-6666. Ma ora scopriamo i temi di questa puntata, che sarà ovviamente molto marinara e molto genovese. L'appuntamento con il gastronauta per scoprire, come sempre, grandi tendenze, ma ovviamente andremo anche a esplorare qualcosa di gustoso in Liguria. Parleremo di tecnologie con il nostro Enrico Pagliarini, il cinema con tutte le novità in sala questo fine settimana, ma prima ovviamente parliamo di Salone Nautico. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around, slowly drifting. Mi hanno detto che questa canzone si intitola Waves, onde, perché siamo al mare, siamo a Genova, e a Genova ci sono due specialità per noi di Radio 24: la focaccia e Andrea Ferro, il nostro corrispondente ed esperto di trasporti. Quindi siamo a Genova, ti hanno chiuso. Grazie, benvenuti tutti gli ascoltatori che sono con noi a Genova. Da quanti giorni sei chiuso qua dentro piacevolmente? Da martedì. Peccato che domani finisce. Quest'anno tanta gente. Io ne ho visti un po', perché appunto essendo un locale ho visto tante edizioni di Salone Nautico, e questa mi ricorda le edizioni degli anni 80-90, quando i viali della fiera, le zone espositive erano particolarmente affollate. Oggi c'è veramente tanta gente. Poi il tempo regge, quindi... Sì, poi c'è proprio l'atmosfera generale, diciamo così, che secondo me usiamo un po' di metafore. Diciamo già ai nostri ascoltatori che ci sono dei super esperti davanti a noi, non so, evitiamo di usare verbi che poi però guarda che io ho un po' navigato. Hai navigato? Sì, un pochettino, sono un marinaio sui vaporetti, quindi ora comunque dicevo che vira l'atmosfera verso acque più tranquille dopo gli anni tempestosi della crisi, e purtroppo anche per il Salone Nautico sono state edizioni abbastanza sofferte. Ora invece siamo, diciamo, spinti da un buon vento, si dice credo anche così, spinti da un buon vento verso prospettive interessanti. Abbiamo sentito in settimana i dati del comparto, estremamente significativi, positivi, crescita a doppia cifra, abbiamo snocciolati nel corso dei vari collegamenti nel GRR, durante i programmi, ma come dicevo è l'atmosfera che mi piace particolarmente. Vedo più sorrisi, vedo un'atmosfera diversa da parte delle persone, un atteggiamento diverso da parte delle persone, c'è più voglia di mare secondo me, anche perché secondo me va un po' ricalibrata la percezione sociale del mare e di chi va per mare. Nell'iconografia mediatica, ti piace? Iconografia mediatica. Piace? Quando è accanto a me Andrea Ferro, proprio l'iconografia mediatica. Sono come la focaccia al formaggio. Non è poco, ragazzi. Allora, nell'iconografia mediatica si pensa al maxi yacht, veline, terzini, piloti di Formula 1, vita smeralda, costa smeralda e via dicendo. In realtà il mare è qualcosa di molto più fruibile e di molto più popolare. D'altronde in Italia siamo una piattaforma sul Mediterraneo, quindi non possiamo che essere appassionati di mare. E c'è stato nel corso degli anni quindi anche quasi, oserei dire, una criminalizzazione nei confronti di chi andava per mare, miliardi di controlli, e chi ha una barca, insomma, voglio dire, se la passa un po' troppo bene, chissà come se l'è comprata, certo, chissà cosa c'è sotto. E in realtà non è così, perché il grosso della nautica sono anche le piccole barche, sono i gommoni, le piccole barche a vela, cioè insomma c'è un settore che è passione, voglia di mare, che si può sviluppare e praticare anche con poche centinaia di euro. Qui ci sono, cioè, natanti da poche centinaia di euro, cioè non è dove che... sta andando il gusto, dove stanno andando le tendenze? Ma da quello che mi raccontano, io chiaramente ho fatto un giro, più di un giro nel corso di questi giorni, tra gli stand, tra gli operatori, diciamo che la tendenza è quella di godersi il mare, quindi non necessariamente di solcarlo a grandi velocità, sì, e questo vale, sì, anche per, sì, i motor yacht, quindi avere la possibilità anche di essere il più possibile sostenibili con motorizzazioni, diciamo, più ecologiche, combinate, addirittura ci sono chiglie basculanti per produrre energia, insomma, poi se fosse ora direttamente qua in questo momento Pagliarini mi aprirebbe. Arriva dopo, ho sentito purtroppo, perché mi inquieta la sua presenza, arriva, domande strane. No, dicevo, ci sono quindi tante possibilità di godersi il mare grazie alla tecnologia, a fruire il mare anche nel suo elemento naturale, quindi rispettando il pianeta, le emissioni e via dicendo, e c'è comunque la tendenza appunto a privilegiare il rapporto, il gusto del mare a tutto tondo, non una corsa per raggiungere più in fretta un porto rispetto ad un altro. E poi mi dicono che sono delle persone che si occupano di vela, che a breve ce li abbiamo qui, certamente chiediamo l'eccellenza a loro il gusto del mare. Del gusto abbiamo del mare. In postazione con noi qui al Salone Nautico di Genova Giancarlo Pedote, buongiorno, e poi abbiamo anche Vittorio Malingri con Nico, ciao, è l'erede, che cioè è già l'erede pronto, coequipier ed erede, fantastico. Allora, amore del mare, siete d'accordo che questa sia la prima molla, la prima cosa per voi, che poi prendete la vela ed andate da soli o quasi, è una molla importante, Giancarlo? Beh, indubbiamente l'amore è la prima scintilla che fa scattare un percorso, sia di qualcuno che decide di fare delle regate o anche semplicemente di gustarsi una bellissima crociera con la propria famiglia, o anche un'insalata con un piccolo motoscafo di 4 metri e un piccolo motore fuoribordo. Io penso che l'amore per il mare può essere vissuto a diversi livelli e è un qualche cosa di assolutamente interessante, penso istruttivo, soprattutto perché ci confrontiamo con un elemento che non possiamo plasmare a nostro piacimento, poiché è più forte di noi, e quindi spesso siamo costretti anche a... Fa anche un po' paura per questo, a volte, un po', perché è più forte di noi e perché... Però quando ti conquista... Beh, quando ti conquista chiaramente fai parte del club degli stregati del mare e non puoi più bello. Uscirne. Bello, bello. Vittorio, stregati del mare, così? Sì, ragazzi, 17 anni di salone come espositore, cominciato 10 anni. Ed è una passione di famiglia, una passione proprio di quello che diceva lui, cioè di una nautica minore, cioè quella dei tanti che vivono il mare in qualsiasi modo si possa, e che vedo che è quella che ce l'ha fatta poi alla fine a passare attraverso quel periodo di crisi, perché è gente che non rinuncia grazie a questa passione. Per me lo è sempre stata. Io sono caduto nel pentolone da piccolo come Obelix, no? Un pochino, per cui anche facilitato dal fatto che fosse il lavoro e lo sport di casa mia. Io vedo, stavo curiosando sui vostri due siti, e ci sono tutte le grandi sfide che avete iniziato in questo periodo e che avete di fronte per la prossima stagione. Giancarlo, che cosa hai davanti tu in questo periodo? Che cosa farai di bello? Allora, io in questo momento ho un obiettivo molto ambizioso, che è quello di partire per un giro del mondo senza scalo. Una regata che partirà imminente adesso il 6 novembre dalla Francia, ma ormai questa edizione purtroppo l'ho persa come un treno che va via. È una regata chiaramente che non si prepara in 5 minuti, ma sono anni di preparazione, certo, pianificazione, eccetera, eccetera. Quindi la prossima edizione sarà a novembre del 2020, una regata che si effettua su barche di 18 metri. Che dura quanto? Scusa, io sono totalmente profana. Meno di 3 mesi, diciamo, con delle barche attuali. Quindi comunque stiamo parlando forse dell'impresa sportiva più lunga nella storia dello sport, anche perché appunto non esistono per quanto ci siano i triathlon, Ironman, di cui non sono assolutamente esperto, o comunque altre imprese che siano di una così lunga durata. Mamma mia, una sfida con il mare, ma anche con te stesso, però. Sì, diciamo, allora, con il mare, per quanto mi riguarda, no, non è mai un discorso di sfida, è un discorso di riuscire a tracciare la propria rotta senza fare danni e senza essere presi. Quindi fondamentalmente da parte mia non c'è nessun senso di sfida verso il mare. Chiaramente un po', diciamo, l'obiettivo, il goal da raggiungere è quello di farlo per innanzitutto arrivare, perché per posizionarsi bene in una regata non bisogna dimenticare mai che bisogna arrivare, e poi bisogna cercare di farlo nel minor tempo possibile. Quindi fondamentalmente cercare un po' di lavorare su tutti gli aspetti, e nella barca ce ne sono tanti, che sono appunto la preparazione, la studio del meteo, appunto alimentarsi, certo, bene, dormire correttamente, tante piccole cose che poi sono capaci di fare la differenza per poter appunto sviluppare questo progetto nel migliore dei modi. Vittorio, invece, la tua prossima avventura, le tue prossime sfide, le vostre, perché appunto c'hai, cioè, qui il coequipier che tra poco chiamiamo in causa. Allora, noi siamo invece agli antipodi. Io il Van de Globe lo feci come primo italiano tanti anni fa e sono andato incalando piano piano di dimensioni di barca, perché non potendo allungare gli oceani per alzare l'asticella dell'avventura bisognava diminuire la barca. Allora noi corriamo, attraversiamo gli oceani con un piccolo catamarano che potrebbe essere un catamarano da spiaggia, poi in realtà è così un po' più fuoristradistico, no? È stato preparato un po', è stato alzato, allargato, irrobustito, e facendo dei record di una classe che si chiama F20 che ci sono. È un catamarano che non è abitabile, cioè non ha degli interni, non ha delle cuccette, non ha una cucina, per cui è una cosa molto molto fisica che ci riporta un po' alla navigazione polinesiana, è una moderna piroga. Noi siamo reduci adesso in agosto ad aver battuto di tantissimo, tra l'altro, un record molto blasonato, che è il record del Mediterraneo da Marsiglia fino a Tunisi, abbassando il tempo tra l'altro di tantissimo. Corriamo io e Nico, che è mio figlio, che poi sentirete. Siamo un duo così un po' strano, detti il vecchio e il nano, due amici. Non mi sembra che ci siano i presupposti. Esatto, non mi pare, però, vabbè. Però sì, ma questi padri no, vogliono poi sempre vedere i bambini piccoli. La poesia sull'onda del mare, personaggi. Sì. E invece in questi giorni io, mentre ero in giro a fare, diciamo, la parte burocratica, Nico, detto il nano, e Cesare, che è il nostro terzo amico che compone questo team di unconventional atleti, che poi tra l'altro siamo di tantissimi sport, perché noi abbiamo una squadra che va dallo snowboard al surf, al windsurf, al kitesurf, tutta di non campionissimi, però molto così portatori di questo be different and feel good, che è un po' il nostro motto. E siamo fuori completamente di testa, però diciamo con un certo livello meno male che di professionalità. Prepariamo una Portofino Giraglia Portofino. Ah, fantastico. Io devo dire che con questo team dei fuori di testa già entrambi mi hanno prendiamo conquistato. Prendiamo. Allora, chiamiamo in causa Nico, gli passiamo una cuffia, così voglio sapere da lui, da il nano. No, è un romanzo criminale, il nano. L'altro si chiama Cesare. Com'è fare da coequipier al vecchio? È tosta, lui c'ha una grandissima esperienza, quindi ovviamente c'è grandissimo rispetto in un rapporto che magari è un po' più personale, padre figlio. C'è questa fortuna qui, diciamo. Comanda che lui, però, no? Comanda lui, ovviamente, cioè c'ha tutta l'esperienza che c'ha, quindi purtroppo, anche se uno magari da figlio vorrebbe essere un po' più scalmanato, c'è questa figura che comunque, oltre ad essere tuo padre, è uno dei più grandi navigatori italiani, quindi devi rassegnarti. Dovrei dargli retta, esatto, piano. Che meraviglia. Allora, io ho appena twittato i vostri account di Twitter, che così vi possono seguire, almeno possiamo seguire da lontano le vostre imprese, perché sono veramente bellissime. Grazie per essere stati con noi. Allora, io ho vi segnalo anche gli account @ Giancarlo Pedotto e @ Vumalingri, sono giusti? Allora, twittiamolo subito, così li potete seguire. Grazie per essere stati con noi al Sabato del Villaggio. Grazie anche a Nico. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie, noi ci troviamo tra pochissimo, perché barche a parte dobbiamo sentire come sta andando su strade e autostrade. Quello ci urge, tra poco. Il Sabato del Villaggio. Go down to the sea and tell me what it is that you wanna be. Beh, siamo ancora insieme con il Sabato del Villaggio qui dal Salone Nautico di Genova. Che bellezza, che meraviglia essere a Genova, essere ancora con Andrea Ferro, il nostro genovese di Radio 24. Sì, anche imbarazzante. Tra l'altro so che domattina c'è un tuo reportage per sapere un po' di 8 e un quarto. Diciamo così, un po' il racconto di questo mondo declinato sui numeri, ma declinato, come dicevamo anche prima, sull'atmosfera, sulle sensazioni, insomma, su questo buon vento che sta caratterizzando la 56esima, sono tante, 56esima edizione del Salone. Ah, sai che c'è anche una mostra fotografica con tutte le foto di tutte le edizioni, oltretutto fatta da una fotografa che è anche una costruttrice di barche, che poi ci sono anche degli sguardi sul mare, gli occhi sul mare, si chiama Sea Vision, è molto bella, è una delle tante iniziative collaterali collegate al salone, che è sport, sono Infatti abbiamo sentito con noi ci sono stati due campioni. Sì, ma c'è anche la possibilità per i visitatori di fare qualche cosa. Sì, ho appena twittato anche che sono due gran bei ragazzi, tre gran bei ragazzi. Vabbè, io francamente passo, io questo passo. Questo l'ho scritto io. No, a proposito di bei ragazzi, dovremmo averne un altro in collegamento con noi. Chi? Come sempre, non so da dove. Chi? L'hai evocato? No, ce l'abbiamo. Lui, Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ciao. Chissà dove sei. Allora io e Andrea siamo qua, pronti a farci aggiornare su tutte le novità tecnologiche. So che qualcosa sulla nautica c'è. Sì, allora intanto posso dire che sono a Milano, quando sono in sede posso dire dove sono. Ah ok, sei a Milano. Sì. La regola è che quando sono in trasferta non vi dico dove sono. Va bene. C'è stata una signora che mi ha incontrato recentemente, non so in quale appuntamento, e mi ha detto: non glielo dica mai alla cagnola dove si trova, tenga duro, tenga duro. È stata gentile. Va bene. È così, la solidarietà femminile è finita. Allora volevo rispondere a parte le chiglie basculanti su cui non sono espertissimo, e quindi ti salvi, meno male, Andrea. Però c'è una cosa che sta... Allora, se noi consideriamo il mondo delle automobili, dove molto lentamente, ma ormai con una direzione abbastanza tracciata, si sta affacciando la propulsione elettrica, anche nel mondo della nautica, tecnologicamente parlando, se parliamo di propulsione e se parliamo di imbarcazioni piccole per il momento, perché ovviamente uno yacht... Non so quando potremmo immaginare di poterlo muovere con delle batterie elettriche, però sicuramente nell'imbarcazione di piccolo taglio si sta affacciando questa nuova propulsione. Ci sono già disponibili tecnologie, non sto parlando di una cosa nuovissima, ma stiamo parlando di una cosa che sta, così come succede nel mondo delle automobili, subendo una sorta di discontinuità, e quindi nei prossimi anni vedremo sempre più proposte, batterie un pelino più performanti e quindi anche questa propulsione nella nautica. Più ecologiche, mi sembra un'ottima notizia da questo punto di vista. Evidentemente, anche lì ci si sta, la sostenibilità, si sta studiando. Certo. Beh, questo è un concetto ricorrente qui. Sì, sicuramente, esatto. Poi nel mondo della nautica, così come in tanti altri mondi, si stanno sviluppando un sacco di servizi, ovviamente tramite app, tramite internet, per chi ha la barca, per chi opera nel settore, quindi sistemi di prenotazione del posto barca, sistemi di prenotazione di tutto quello che serve a chi arriva in una marina, in un porto. Poi ci sono anche delle cose che sono state presentate, delle soluzioni che sono state presentate anche al Salone Nautico. Si sta affacciando la virtualizzazione, e così come in alcuni casi lentamente ma inesorabilmente si sta affacciando la virtualizzazione nella costruzione delle case, ma soprattutto nell'offerta di servizi al consumatore. Io che costruisco casa ti posso far vedere come sarà la tua casa finita. Ci sono soluzioni così fatte anche per gli yacht. Ovviamente stiamo parlando di una nicchia di mercato, perché gli yacht non sono sicuramente un tema popolare, però ad esempio Virtual Reality for Yacht Design è un prodotto e una soluzione che viene proprio presentato in questi giorni alla Fiera di Genova, ed è appunto questo concetto, cioè utilizzare la facilità con cui oggi con computer e in prospettiva anche con sistemi di realtà virtuale, quindi occhiali di realtà virtuale, uno può muoversi all'interno dello yacht dopo aver scelto magari gli interni, l'arredamento e tutte le cose che vanno su uno yacht, che non conosco perché non mi sono mai occupato di uno. Mi hanno appena invitato ad andare a curiosare questa realtà virtuale per gli yacht. Ho un po' l'impressione che sia come andare in pasticceria se sei a dieta, perché secondo me sì. Vedo delle cose bellissime che non, però mi incuriosisce molto. Sì. C'è un trend, non è un trend tecnologico, però sai che oggi, allora, per i pasticcini non vale, non li puoi noleggiare, no. I pasticcini o li compri, te li mangi oppure no. Ecco, invece nel mondo delle imbarcazioni, spendendo cifre, devo dire, per barche di taglio medio-basso, cifre non folli, se uno è in compagnia magari in 4-6 persone si può permettere di noleggiare per una settimana un'imbarcazione. Certo. Infatti, però il noleggio sta diventando una realtà. Infatti tra l'altro poi invece vi anticipo che nella seconda ora Maria Luisa Pezzali invece ci anticiperà un trend sulla condivisione molto molto interessante, sempre per quanto riguarda la nautica. Enrico, però so che tu avevi anche altri argomenti attualità. Volevo ricapitolare molto brevemente quello che è successo a Yahoo questa settimana. Che è stato piuttosto grave, però mi verrebbe da dire potrebbe succedere a tutti. Allora, Yahoo ha subito un attacco. Cosa interessante, curiosa e anche grave è che questo attacco è stato un attacco informatico in cui sono stati rubati un sacco di dati, parliamo di 500 milioni di utenti che sono stati hackerati, i cui dati sono stati rubati. Allora pensate che risale al 2014. Questo è un tema ricorrente quando si parla di sicurezza informatica, perché alcuni esperti dicono ci sono un sacco di aziende e magari un sacco di utenti che sono stati hackerati e non se ne sono mai accorti, quindi la notizia è sicuramente molto molto interessante, perché ci richiama a tutte quelle ricette che ogni tanto noi diamo per avere sistemi di protezione o comunque per mitigare questi rischi. Ovviamente una parte di tutto ciò riguarda le aziende che offrono servizi, che si devono proteggere, e qui come utenti finali ci possiamo far molto poco, anche perché è molto complesso e molto difficile sapere quanto le aziende, pensate le banche, le istituzioni finanziarie, oppure che hanno in mano dei nostri dati importanti, è molto difficile sapere quanto e come si proteggono, quindi su questo ci possiamo fare molto poco. Sicuramente possiamo fare alcune cose che, capisco, per pigrizia non facciamo quasi mai, ma bisognerebbe fare, ad esempio cambiare le password ogni tanto, fare delle password complesse. Allora, di sicuro se siamo utenti di Yahoo, e ricordo anche utenti di Libero, perché Libero qualche settimana fa, libero.it, quindi un'azienda italiana piuttosto nota, ha subito un attacco informatico, non delle dimensioni di Yahoo, comunque un attacco sicuramente importante, e anche gli utenti di Libero dovrebbero cambiare le password per precauzione. Posto non è detto che siano stati attaccati. Noi le cambiamo spesso perché ce l'hai consigliato, e noi le cambiamo regolarmente le password, perché ci hai detto di Benissimo. Farlo e non lo facciamo. Lo faccio pure io. Però ma non me l'ha detto Pagliari. Non te l'ha detto Pagliari. Bravi. Ecco, però devo dire che purtroppo ci sono un sacco di persone a cui è stato detto e ridetto, però per pigrizia non lo si fa. Non c'è nulla da fare, cioè su questo non si può. Ecco, una cosa che potrebbe agevolare chi è un po' pigro, utilizzare, anche se io non sono un grande fan, però ci sono delle app o dei programmi per il computer che conservano tutte le password, e di fatto con un account noi gestiamo tutte le password e ci aiutano. Scusa Enrico, perché non sei un grande fan di queste app, per curiosità? Ma perché hai un unico punto di rischio, cioè certo, riduci il rischio, cioè ti concentri tutto lì. Okay. No, certo, anche perché io lo dico, Enrico le password le conserva, adesso non sto svelando un segreto, ma fisicamente, cioè non è che le lascia in rete, non le lascia, per principio, no? Tu non le lasci in rete. Allora io, poi qui ognuno ha le proprie ricette, però devo dire che quando svelo questa ricetta agli esperti di sicurezza mi dicono, non è male. Se qualcuno ha una ricetta migliore, io sono prontissimo ad aprirmi. Allora, la mia ricetta è una chiavetta USB di buona qualità, perché le chiavette USB sono a volte anche di scarsa qualità e quindi magari si rompono. Su questo bisogna stare molto attenti, è vero. Sì. Infatti io ad esempio, visto che la mia chiavetta è un po' vecchia, ne ho già comprata una nuova sulla quale ho già salvato il file dove tengo le password, pronta, perché se mi si spacca la prima c'ho la seconda. Comunque, morale della ricetta, io tengo un file che è protetto da una password abbastanza complicata, all'interno di questo file ho l'elenco di tutte le mie password, e uno giustamente potrebbe dire vabbè, ma se ti rubano quello, è certo, però questa chiavetta me la tengo vicino al portachiavi. E certo, uno potrebbe perderla, cioè, però ritengo... Una volta è successo, Enrico l'ha lasciata in un posto e sono andata io a recuperarla perché era nel panico. E gli ho detto, guarda, sto uscendo dalla RA. Sì, è vero. Un po' uno smacco. Sì, sono andata ieri a recuperargli il mazzo di chiavi. Cos'hai provato, Enrico? Cos'hai provato, Enrico? Ti intervisto. Cos'hai provato? Vecchiaia che avanza, qualche neurone che si perde. No, perché ahimè sono circostanze che possono subire tutti. Sì, però vedi, zia Marta va e recupera tutto. Enrico, ma tutto questo ha un po' a che fare con i problemi di sicurezza? Diciamolo chiaramente, in questo periodo ci sono state delle fughe di foto un po' compromettenti. La prima ricetta è sempre quella di non farli, ma nel caso in cui le facciate forse è meglio proteggerle un po' di più. So che ne hai parlato anche a 2024. Sì, che... allora ci sono due piani. Allora, se noi abbiamo delle fotografie che sono salvate sul nostro hard disk o comunque salvate in rete in luoghi protetti da password, e se queste foto finiscono in rete da qualche altra parte, questa fattispecie rientra nei problemi che abbiamo raccontato adesso, cioè attacchi hacker, e su quello appunto cambiare le password, avere delle password potenti aiuta moltissimo e mitiga il rischio. Se noi facciamo delle foto che potenzialmente possono essere compromettenti e le spediamo in giro, questo è un problema di educazione alla rete che sfugge, cioè non c'entrano niente gli hacker. A questo punto poi se noi mettiamo delle foto in rete perdiamo il controllo. Ho parlato di questo tema perché, adesso lo dico in un minuto, ma ne abbiamo parlato per molto tempo perché la cosa è piuttosto complessa e da un certo punto di vista paradossale. Mm-hmm. Pensate che è più, per quanto complicato sia, è più facile... una volta che una società, ad esempio una grande TV, individua del materiale piratato in rete, è più facile, comunque ci sono tutta una serie di regole e di leggi che favoriscono queste aziende per far sì che venga tolta dalla rete questo materiale. Sì, sono più protette, insomma. Sì, piuttosto che materiale che riguarda la persona. Sembra paradossale, però è così, e purtroppo non pare che all'orizzonte ci sia nessun tipo di soluzione. È un tema molto complesso, molto dibattuto, che poi ovviamente richiama anche le libertà della rete, perché la capacità di pubblicare qualcosa in rete fa parte anche della libertà che noi abbiamo nelle nostre espressioni in rete. Quindi forse il punto di equilibrio è molto difficile da trovare. Molto complicato. Ci riascoltiamo il podcast di 2024, so che ci sono un sacco di particolari in più ieri sera, e poi ancora domani va in onda nella forma della domenica, vero? È esattamente 13:30. Comunque, per farvi un po' di invidia, adesso io ho un appuntamento, quindi esco dallo studio dove sono, ma di lavoro, invidia, è una giornata meravigliosa, una temperatura gradevolissima. Genova si sta malissimo, quindi ho fatto benissimo. Grazie Enrico per essere stato con noi, alla prossima puntata, ciao Enrico. Io ringrazio anche Andrea Ferro, ma mica lo licenzio. Andrea, noi ci troviamo tra un'oretta. Torni ancora a trovarci per parlarci di Salone. Posso? Vai a trovare ancora un po' di notizie? Sì. Allora noi ci ritroviamo tra meno di un'ora, 4:15 ti riaspetto qua. A dopo. Noi invece ci troviamo dopo una pochissima pausa perché avremo l'appuntamento con il nostro gastronauta tra poco. Il sabato del villaggio. sognare. Qui intorno a me tutti ridono sotto i baffi perché ho voluto Little Tony Mare Profumo di Mare, ma siamo in diretta dal Salone Nautico di Genova e non mi date Mare Profumo di Mare Little Tony, una delle pietre miliari. Cioè ogni volta che io arrivo a Genova per i primi 10 minuti canto Mare Profumo di Mare. Allora, sempre qui in diretta dal Salone Nautico di Genova per il Sabato del Villaggio, 56esimo salone, ci ha appena aggiornato Andrea Ferro, che tornerà con noi dopo le 16.15 ancora con un grande ospite. Adesso però è il momento di tornare a collegarci con il nostro gastronauta, perché abbiamo ritardato solo di un quarto d'ora l'appuntamento di ogni sabato con Davide Paolini, ma ce l'abbiamo. Ciao Davide. Ciao, ciao. Eccolo qua. Sul mare. Ah, quindi, guarda, che meraviglia. Io preferisco Cuore Matto, Ah, beh, senti, i grandi classici vanno benissimo, i grandi classici di Little Tony. A proposito di grandi classici, so che questa volta volevi raccontarci un po' di pane, perché l'abbiamo tema che abbiamo toccato più volte nei nostri appuntamenti, sì, con il Sabato del Villaggio, appunto, grande classico, ma adesso le tendenze quali sono? Beh, diciamo che sono tendenze che vanno in casa e al ristorante, cioè ormai il pane è tornato ad essere importante, però è tornato a essere importante forse anche per la nostra agricoltura, perché ormai tutti chiedono il pane con grani antichi. Cosa sono i grani antichi? I grani antichi sono quelli che non sono stati toccati, sono così in natura, in cui l'uomo non ha messo le mani praticamente e quindi non le ha cambiati nel tempo. In Italia siamo molto ricchi di grani antichi, probabilmente questi grani antichi nel tempo hanno sempre prodotto meno, in molti casi sono stati, diciamo, perduti. Oggi c'è un grande ritorno, ci sono molti piccoli agricoltori sparsi per il paese che hanno cominciato a produrre grani antichi. La Sicilia è un po' il centro dei pani antichi, perché con 2 o 3 nomi forse alla gente dicono poco: la Tumminia, la Maiorca, il Russello, il grano del miracolo. Ecco, il grano del miracolo è più padano che quegli altri, sono quasi tutti siciliani. Perché questi grani? Perché tra l'altro hanno basso contenuto di glutine. Questo cosa significa? Significa che siccome in questo momento sia la celiachia che una intolleranza al glutine creano dei problemi in molte persone, un fenomeno che è emerso negli ultimi 10 anni, c'era anche prima, però ora pare che il numero di allergici sia decisamente maggiore rispetto al passato, forse perché ci sono più analisi, più cure, più i medici hanno imparato a distinguere la celiachia. Ed oggi c'è la ricerca di questi pani che, devo dire, anche dal punto di vista del sapore, del profumo, non hanno niente da invidiare agli altri, anzi, non solo basso contenuto di glutine, ma grandissima, privatezza. Ma oltre a questi grani, diciamo che questo problema si sta trasferendo anche alla pasta, perché anche qui, certo, cioè, se tu vai da un panettiere, ormai è un refrain, chiedono il pane senza glutine di grani antichi, oppure se vai da un negoziante dove viene venduto la pasta, senti che ti chiedono la pasta del senatore Cappelli o la pasta col Camut. Sul Camut io ho già fatto una digressione tempo fa dicendo che è un marchio, non è un grano. Il grano si chiama Khorasan e invece Camut è un marchio commerciale di furbastri canadesi, i quali hanno, diciamo, depositato questo marchio e quindi su ogni... Così impariamo a conoscere invece il nome del grano vero, quindi quello è il nome commerciale Khorasan, di un'azienda, ok? Sì, però questa azienda ha in mano tutto il Khorasan e quindi lo può vendere solamente questa azienda. Accidenti. Perché i semi sono di questa azienda, quindi questa azienda vende anche i semi. È un po' il discorso degli OGM con questi brevetti che ha in mano la Monsanto, questa grossa multinazionale che ora si è fusa con la Bayer. E quindi il Camut è tutto in mano, è un marchio depositato, quindi diciamo che per ogni etto di pasta che qualcuno va a mangiare c'è una parte che va a favore di questa società canadese. Ma il grano si chiama Khorasan e sai cosa c'è? Che in Italia c'è un grano che si chiama Saragolla, che molti dicono che sia la stessa cosa o molto simile al Khorasan. solo che la Saragolla purtroppo è magari in Calabria, in Puglia o in Sicilia, e lì non c'è stato nessuno svelto e furbo come questa famiglia certo. canadese che se l'è depositato. Ma sai la veramente la quindi pizzeria. Dobbiamo ricordarci Saragolla e senatore Cappelli. Sì, no, devo dire che ti dico un'ultima cosa, che il proprietario della Camut ha dichiarato ultimamente che l'80% del Camut arriva in Italia, quindi viene venduto agli italiani. Quindi noi italiani, che siamo molto esperti in agricoltura, in cibo, compriamo questo Camut, che tra l'altro non è assolutamente con basso contenuto di glutine. Quindi anche queste sono delle storielle che ormai appaiono continuamente. Sempre per continuare sulle tendenze, il sì. pane, ormai dicevo, se vai in una panetteria, ormai non c'è signora, signorino, signore, che non dica voglio con il lievito madre. Ah, ecco, certo. Conosco anche gente che se lo coccola come se fosse un figlio. E diciamo che per il lievito madre è vero, hai perfettamente ragione. Il lievito madre viene coccolato. Perché ti racconto un aneddoto. Un bravissimo pasticcere di Arluno, Teresio Busnelli, che produce panettoni, addirittura se lo portava in vacanza e lo chiamava Gigi. Il suo Gigi, perché è vero questo, perché il lievito madre ogni giorno deve essere coccolato, gli devi mettere qualcosa, c'è chi mette acqua, c'è chi mette yogurt, c'è chi mette tantissime altre cose, però deve essere coccolato, perché ogni giorno bisogna dirgli che gli vuoi bene, che gli muovi molto bene, che lo ami e che quindi deve crescere bene come un bambino. Perché e quindi mi viene il dubbio che se io vado a chiedere del pane con lievito madre da un panettiere, magari non può anche non averlo coccolato così, può anche non essere così vero. Ma mi devo fidare? No, allora ti dico subito, attenzione, attenzione. Non tutti i panettieri fanno il pane. Ormai a Milano di panettieri che fanno il pane, cioè, sono pochissimi. Dove vai a comprare il pane? A Milano piuttosto che anche in tante altre città. Di solito questo pane arriva da forni che sono fuori della città o fuori da altre parti. Sicuramente non tutti se lo coccolano e non tutti lo fanno col lievito madre, perché ti dico che molte persone entrano da un panettiere e dico mi dà il pane col lievito naturale. Attenta alla differenza tra lievito naturale e lievito madre o madre acida, come si chiama. Il lievito naturale può essere anche lievito di birra, che è completamente diverso dalla madre acida. Di conseguenza molti ci giocano su questo, ti dicono sì, come no, il mio pane è lievito naturale, ma in realtà è lievito di birra. Però attenzione, non è detto che un pane fatto bene con delle farine come Dio comanda sia inferiore a un pane fatto con la madre acida. L'unica cosa è che l'odore, senti meno l'odore dell'acido, senti meno l'odore del pane e dura molto meno. Un buon pane fatto con madre acida, con un'ottima farina, oggi può durare anche 15 giorni, perché fino a qualche anno fa la gente diceva il pane non mi dura più come in passato, e il motivo era questo, di era lievitato in altra maniera, le farine non erano quelle che si cominciano a ritrovarsi oggi, perché c'è stata veramente una ricerca di queste farine. E diciamo di un tempo che erano state completamente abbandonate. Non è detto che anche farine ad esempio canadesi o russe non si riesca a fare un'ottima pasta, per carità, ce ne sono anche delle paste italiane che sono ottime su questo. Diciamo che ci sono altre paste fatte con questi grani che magari sono leggermente diverse, però anche lì poi interviene la qualità di chi lavora la pasta. L'importante è sapere cosa compriamo, sapere cosa corrisponde alle parole che diciamo. Davide, ti chiedo solo un attimo di pazienza, aggiornamenti sul traffico e poi ci ritroviamo ancora con il sabato del villaggio. Solo qualche istante di pazienza. E ci ritroviamo insieme con il sabato del villaggio, sempre da Genova, sempre in collegamento con il nostro Davide Paolini. Davide, abbiamo pochi minuti, pochissimo, prima di dare la linea al nostro Franco D'Assisti per le anticipazioni di tutti i film in sala questo fine settimana. Però, visto che siamo a Genova, ti devo chiedere qualche indirizzo giusto per le specialità liguri. Noi siamo qua, quindi dacci qualche dritta giusta, Davide. Ti dico... Innanzitutto ti do due piatti da provare. Sì. Uno, il Brandacuyun. Ah, sono preparata, sono preparata. Sì, sì, sei preparata, va bene. Ottimo. Sto capisco. Poi un'altra cosa interessante sarebbe se tu trovassi il caponmagro. Il caponmagro è un piatto di pesce veramente enorme, con verdure, gallette, e c'è diverse tipologie, diverse specie di pesce. Ecco, se tu lo trovassi in un ristorante che fa questo, è veramente straordinario. Poi la panissa. Pure le mescua, i panigacci, e ti do anche magari però dove andare a mangiare. Ecco, dai, allora, dacci qualche indirizzo. Qualche indirizzo ti do. Ippo... Ti stiamo perdendo, Davide, accidenti, ci sei ancora? Ippogrifo. Ippogrifo. La voglia matta. Mm-hmm. Pure a Itti, sul porto. Ti abbiamo perso, Davide, non riusciamo a sentirti. Facciamo ancora un tentativo. Davide, ci sei? Accidenti, abbiamo perso il nostro Davide Paolini. E niente, allora facciamo una cosa. Non vi abbandoniamo sugli indirizzi liguri. La prossima volta li recuperiamo, perché ci teniamo. Insomma, vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca con tutte queste specialità genovesi e liguri. Poi abbiamo due liguri qui in studio con noi che mi facevano di sì con la testa. Abbiamo riprovato a trovare Davide Paolini. Niente, il nostro Davide, purtroppo le linee telefoniche non ci hanno assistito, e rimaniamo con questa acquolina in bocca. Io devo dire che la focaccia di Recco, però, a pranzo la mangiate, era davvero buonissima. Allora, nulla, diamo appuntamento con il nostro gastronauta e con Davide Paolini per il prossimo sabato, come sempre al Sabato del Villaggio. Io lo saluto a distanza se ci sta ascoltando, e magari riusciremo anche a recuperare questi indirizzi genovesi e liguri per tutte queste specialità. Come sapete, noi quando promettiamo poi manteniamo, la settimana dopo recuperiamo tutti i temi. Allora, sono le 15:49, quasi 15:50 minuti. Facciamo una cosa, cambiamo argomento, apriamo un'altra pagina nel nostro Sabato del Villaggio, che è quella del cinema. Tutti i film in sala questo fine settimana, tutti i consigli del nostro super esperto Franco D'Assisi. Da cosa partiamo? Ma partiamo così. Gli Stati Uniti d'America, questo paese mi ha creato. Signore, Elvis ha portato una lettera per lei stamattina. Elvis? Elvis Presley? Il cantante. Oh, lo so chi è Elvis Presley. E dovrei vederlo durante la mia ora di riposo. Sì, signor Presidente. Posso essere e sarò senz'altro più utile alla causa in qualità di agente federale aggiunto. È una cosa che esiste. È uno scherzo? E questo era un frammento di Elvis e Nixon. Il titolo è curioso, è uno dei film che escono questo fine settimana al cinema. Per sapere se vale la pena andarlo a vedere, ci colleghiamo subito con il nostro super esperto Franco D'Assisi. Ciao Franco, allora vale la pena andarlo a vedere? Sì Marta, vale davvero la pena. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Intanto vale davvero la pena, ne parleremo alla Rosa Purpura alle 18 qui su Radio 24, perché è un film... molto particolare, stenta un po' magari all'inizio a andare in quota, stenta un po' a trovare un suo centro, ma quando lo trova, ed è il momento in cui Elvis Presley varca la porta dello studio ovale della Casa Bianca per stringere la mano a Richard Nixon, diventa davvero un altro film, e lì tutto tiene e tutto torna. La storia di un incontro di cui al secolo rimane una foto, la foto più scaricata dall'archivio di Stato americano, quella di una stretta di mano tra Richard Nixon e Elvis Presley, due mondi apparentemente molto diversi. In effetti i due non avevano molta voglia di vedersi l'un l'altro, però poi dopo, quando si sono visti, hanno saputo incrociare delle umanità in un incontro che è andato ben oltre i 5 minuti prefissati ed è diventato un frammento di storia americana e non solo. Bravissimi i due attori, Kevin Spacey nei panni di Nixon, Michael Shannon nei panni di Elvis Presley, buona la regia di Lisa Johnson, soprattutto in quella parte centrale, ma è un film che effettivamente vi farà rivivere da un altro punto di vista un pezzettino di storia che magari conoscevamo meno. Abbiamo già parlato, quando abbiamo approfondito la Mostra del Cinema di Venezia, di questo I Magnifici Sette. Remake del remake, insomma un'impresa un po' difficile. È un film che andiamo a vedere, vale la pena, Franco? Beh, I Magnifici Sette è davvero un film in cui il regista Antoine Fuqua si prende un grosso rischio, perché va a mettere le mani su un materiale incandescente, perché alle spalle, ricordiamo, all'inizio c'era I Sette Samurai di Akira Kurosawa, diventato poi I Magnifici Sette nella versione western voluta da John Sturges nel 1960, e adesso, sempre nel Far West, si ambienta questo remake. Perché è molto rischioso? Perché quando si gioca con un film di questo livello, di questa grandezza, una vera e propria icona del suo genere, diventa difficile poi non fare paragoni. E infatti la chiave di lettura è non fare paragoni. E in questo senso, se lo prendiamo come il divertimento di oggi nel vedere la storia di questi sette mercenari che vengono assoldati per cercare di riportare protezione ai cittadini disperati di una cittadina finita sotto il tallone di ferro di un magnate dispotico, ebbene, allora ci si diverte. Chiaramente ci si diverte con i criteri di oggi, con sparatoria non finita. Certo, non c'è l'understatement di Kurosawa, però tutto sommato è un film che intrattiene ed è forse quello che deve fare. Terzo film, uno che mi incuriosisce molto, però l'operazione è un po' difficile. Bridget Jones torna, e come torna, Franco? Andiamo a vederlo? Sarà una bella lotta al botteghino, anche perché stanno andando molto bene i film che già ci sono, ma sicuramente questo Bridget Jones Baby è un film che potenzialmente può fare molto a livello di incassi, anche perché si porta dietro una generazione intera di spettatrici, soprattutto, che si sono viste anni fa, 12 anni fa, ormai sono passati 12 anni da quando Bridget Jones cominciava a scrivere il suo diario per le spettatrici di tutto il mondo. Ebbene, si erano molto riviste in quel personaggio un po' buffo, che inciampava, che non era mai adeguato, ma insomma che riviveva e faceva rivivere le inadeguatezze poi di tutti noi. Ebbene, questa donna comunque è arrivata ai suoi 40 anni e in questo film arriva il bambino, il baby appunto del titolo. Come si comporterà questa Bridget Jones di fronte alla responsabilità della maternità? È quello che un po' il film cerca di dirci, chiaramente in chiave di commedia, con René Zellweger sempre, ma anche con Colin Firth e Patrick Dempsey a fare un po' da contraltare maschile. Un film che, diciamo così, va col pilota automatico, non vi aspettate niente di particolare, però è un film che sicuramente, se incontra il suo pubblico, e il suo pubblico c'è, andrà molto bene al botteghino. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque è dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ci sentiamo alle 18, ciao a tutti. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, ancora in diretta dal Salone Nautico di Genova. Che meraviglia, c'è anche un cielo bellissimo, un sole bellissimo oggi a Genova, ma noi siamo qui sempre con il nostro sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, e poi nella terza ora, sempre in diretta dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tutte le coordinate per raggiungerci: 349-238-6666, il numero per i vostri sms, meglio gli sms dei WhatsApp, ve l'ho detto, perché qui da Genova faccio più in fretta a vedere gli sms, non i WhatsApp. E poi il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, ma anche gli hashtag cancelletto ISDV e cancelletto RadioTube. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora che passeremo sempre qui insieme dal Salone Nautico. I libri con la nostra Alessandra Tedesco, che è qui con noi, qui accanto a me già a Genova. Poi parleremo di consumi e di nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali, ma anche con Giulia Crivelli in diretta dalle Sfilate di Milano, e si parlerà di mare anche lì, sentirete. C'è anche tanto sport qui al Salone Nautico, parleremo di pesca sportiva, ma prima un po' di musica. X Factor miete successi, non so se avete sentito ascolti altissimi questa settimana, ma ora esce anche il disco del vincitore dell'anno scorso. Hey, fuori c'è una tempesta, diventa un buio il giorno. Sai, forse nella mia testa e resta bianco il foglio. Da quanto tempo? Sono passati 9 mesi dalla fine della scorsa edizione di X Factor e qualche giorno fa è iniziata la 10ª edizione, quella nuova. Ora, proprio in questi giorni, proprio ieri, è uscito il primo album di Giossada, che era il trionfatore della scorsa stagione. È il suo primo lavoro discografico, lo dicevamo, il suo album che abbiamo atteso a lungo, si intitola Volando al contrario. Ma perché Volando al contrario? L'abbiamo chiesto direttamente a lui. Volare al contrario è semplicemente aver avuto e fare un volo, ossia vincere per esempio un X Factor, è fare un percorso di questo tipo, cioè invece di sfruttare tutto subito, aspettare, avere i piedi per terra, non farsi fregare dall'entusiasmo e proseguire un progetto con le persone che mi hanno permesso di arrivare qui. Avevamo il repertorio, dovevamo solamente registrarlo, dovevamo solamente andare in produzione, ecco. E diciamo che in quei momenti la rabbia proveniva soprattutto dal no, che poi non era neanche una rabbia, era semplicemente una voglia di dire una cosa diversa e di fare una cosa in un modo diverso. E purtroppo, sai, quando non sei molto abituato a questo tipo di esposizione grande, hai sempre dei... Quando ripeti tante volte una cosa, invece io, cioè, il mondo da cui provenivamo prima era molto più diretto, cioè chi seguiva quel tipo di musica sapevi che aveva già una filosofia, un'attitudine ben precisa. Quindi invece poi rapportarti ad un mondo, che poi è quello che ho voluto fare, che era distante da me, ma distante solamente di pensiero, perché poi è la gente con cui vivi ogni giorno, è stata questa la sfida. E in un primo momento questa cosa era... la sentivo, cioè la sentivamo tutti, anche noi, ci eravamo buttati in questa situazione, però adesso la stiamo gestendo meglio. Non vedo l'ora di ricominciare a suonare live, tipo, e di fare i concerti nostri. E non è stato facilissimo, ecco, affrontare in un primo momento questa cosa come la volevamo fare noi, però ci siamo, insomma, riusciti e sono contento. Con te tra le mie braccia il mio cuore d'acciaio. So cambiare direzione volando al contrario. È sempre Giossada, che appunto è uscito ieri con questo Volando al contrario, che è il suo primo album, molti mesi dopo l'uscita da X Factor. Ma allora ci siamo chiesti com'è stato per lui come è stata per lui questa esperienza di X Factor, che cosa gli ha lasciato umanamente e se si sente ancora con i suoi compagni del talent show. Eccolo qua, Giossada. Ci sentiamo sempre, cioè ci sentiamo molto spesso, con Shorty, con gli Urban, ma con tutti, cioè abbiamo siamo mantenuti in contatto, naturalmente ci sono le nostre cose da fare, però appena possiamo vederci ci vediamo, ma anche con ragazzi di Leon Visit, cioè, non so se ti ricordi di Van Outens, quindi siamo molto amici, ecco. È stato molto bello per questo, cioè io mi aspettavo, sai, magari c'era un ambiente competitivo di gente che voleva, invece... zero, dato che eravamo i più grandi dentro anche, cioè io Shorty, poi c'erano i Music, i Landlord, ma anche gli Urban avevano questa attitudine un po' più da grandi. Abbiamo delineato la situazione, capito? Nel senso, le cose sono così è come se fossimo in tour e stiamo vivendo questa cosa, prepariamoci, andiamo a fare il live il giovedì. E tutti, naturalmente i più piccoli, poi si sono adeguati a questa cosa qui e si è creato questo ambiente molto positivo, molto propositivo, molto di amicizia vera, cioè di condivisione vera di una cosa, non era finto, non c'era niente di finto. Ci sono state anche scazzi all'interno, assolutamente, però facili. Quando hai un background di quel tipo, o anche quando hai un background, una gavetta bella presente, quando vai lì sei tu che vuoi gestire la cosa, in un certo modo. Non ti fai gestire, che ne so, ti fanno una ripresa perché vogliono che tu dica una cosa di... Lo capisci subito, cioè capisci, ragazzi, cioè, la cosa quest'anno è così. E infatti è andata così, e tra tutti noi c'era questa cosa bella, no? Che ci dicevano tutte queste cose che volevano fare, cioè, no, non gli ho detto quello perché volevano sapere quello, ma no. E ce la siamo gestita molto noi, infatti è stato molto bello. Sogni amerei, amerei avere i piedi legati ai tuoi, legati ai tuoi. E quando ne sento bisogno vorrei o potrei liberarti dalla rabbia. Negli ultimi anni tutti i vincitori di X Factor sono nati direttamente a Sanremo, ma ora che Joe Sada ha fatto un album, ci andrebbe a Sanremo? Ma io l'ho sempre detto, io guarda, se avessi avuto anche l'anno scorso una canzone, io ci sarei andato, cioè, solo che credo che quando vai lì devi avere qualcosa che vale la pena far ascoltare, cioè andare a Sanremo così per mantenere l'immagine, non so, non è nella mia interesse. Io voglio andare lì con una canzone bella, ecco, che abbia che valga la pena ascoltare, cioè è quello, perché se vai là con una canzone X giusto per partecipare non vale la pena, cioè non, come non ci penserò prima non ci penso adesso. Il sabato del villaggio. La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dove? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. No, io non voglio andare a casa, sto benissimo qui a Genova al Salone Nautico, ma per molti il mare è una casa, la barca è una casa, addirittura per alcuni scrittori. E quindi avevamo detto alle 16.30, invece no, vi facciamo uno scherzetto, alle 16.15 parliamo subito di libri con Alessandra Tedesco, che è già accanto a me. Ciao Marta. Ciao Alessandra, tutte e due qui a Genova, che meraviglia. Non torniamo a casa, stiamo qua. No, ma sì. Poi io starei. Ho visto un sacco di cosine carine, sai? Sì. C'erano anche negozi di vestiti, voglio dirlo qui. Al salone abbiamo capito che io non sono molto interessata alle barche perché soffro il mal di mare, lo so, non si dovrebbe dire qui dal Nautico, però ci sono un sacco di negozi. C'è una barese che viene al salone, sì. Mezza pugliese, mezza calabrese, quindi proprio posti di mare e soffre il mal di mare. Che ci posso vabbè, fare se io? C'è qualche lupo di mare qua che vuole far passare certe paure alla Tedesco. Vabbè. Alessandra, gente per cui il mare è una casa e la barca è una casa. Guarda, sicuramente lo scrittore più famoso che ha fatto della sua barca Cavela la casa e lo svedese Bjorn Larsson. Lui scrive diversi romanzi che in Italia vengono pubblicati dalla casa editrice Iperborea. Uno per tutti, Raccontare il mare, quindi già insomma di che cosa stiamo parlando. Lui è un uomo molto simpatico, tra l'altro parla benissimo l'italiano perché ha vissuto alcuni anni in Italia. 15 anni fa si è comprato questa barca a vela e lui passa gran parte della sua vita in barca a vela, dove naturalmente scrive i romanzi. E poi naturalmente non va in mari, diciamo, belli, tipo il Mediterraneo, cioè lui è svedese, quindi cioè, attracca di fronte alla Danimarca, cioè anche nei mari freddi, nei mari tempestosi. Che meraviglia, mari procellosi. E in questo libro, Raccontare il mare, lui si diverte a, come dire, giocare con i grandi classici amici della letteratura di mare. Quindi che cosa fa? Ripercorre alcuni grandi romanzi di questo, diciamo, filone e mette insieme la biografia degli scrittori con i personaggi che questi scrittori hanno creato. Quindi, insomma, si parla di mare a 360 gradi e soprattutto di passione per le barche, per il mare. So che c'è anche un musicista che mi hai detto che vive per mare. Gli artisti sono matti, Marta. Fare? Allora, scrittore, abbiamo detto Bjørn Larsson, c'è un musicista, è un violoncellista e direttore d'orchestra che da più di 5 anni vive in barca a vela. Anche lui. Lui si chiama Roberto Soldatini, ha scritto naturalmente un libro, altrimenti non ne parleremmo in questo spazio, che si intitola Sinfonie Mediterranee, pubblicato da Nutrimenti. Lui che cosa fa? Sta 6 mesi in porto a Napoli e 6 mesi invece fa questa navigazione in solitaria nel Mediterraneo. In solitaria sì, ma un compagno speciale su questa barca a vela. Beh, se è un musicista è il suo strumento? Infatti è un violoncello, di ben 300 anni, quindi insomma un compagno di navigazione di tutto rispetto. Lui, diciamo, non si pone una meta, almeno questo è quello che racconta in Sinfonie Mediterranee, segue il ritmo della natura e in questo romanzo racconta un po' il suo vagare fra un mare e l'altro, fra una musica e l'altra, perché poi insomma stai solo in barca a vela, navighi in solitaria col tuo violoncello di 300 anni, che fai tutto il giorno, ogni tanto suona. Certo. Scusa, ti fai una compagnia. Suonatina, una navigatina, che bello, mi piace molto. Si può fare. Bello, mi piace moltissimo. Sai anche chi è andata a vivere in barca? Adesso guarda, ti faccio un indovinello. So. Tu ti ricordi 100 vetrine? Ma tu che sei tutto di televisione. Ti dirò di più, io sono stata nel centro commerciale di 100 vetrine, quello finto, che ovviamente non esisteva davvero. Ah. Sì. Negli studi in Piemonte. È vero che giravano da quelle parti. Quando 100 vetrine ha chiuso, diciamo, il canale 5, insomma, ha deciso di chiudere questa soap, una delle attrici, Marianna De Micheli, cosa ha fatto? Si è comprata una barca a vela e ha iniziato a girare l'Italia. E da qui ha scritto un libro, ovviamente, ed è per questo che ne parliamo, che da 100 vetrine, indovina come si chiama, parlando di barca a vela? No, allora, devo dirti la verità, siccome stavo googlando, l'ho trovato da 100 vetrine a 100 boline. 100 boline! Fantastico. Anche questo pubblicato da Nutrimenti. Fantastico, lo stavo googlando perché non volevo sbagliare il nome del suo personaggio, Carol Grimani era. Sì, e lei appunto va in giro in barca a vela, anche lei ha un ospite particolare. Non è uno strumento musicale, no. Non è un essere umano, ma è... Non ho idea. È un gatto, è un classico. Dai, no? Che carina. Barca a vela col gatto, quindi, diciamo, romanzi che parlano di persone che vivono in mare, Raccontare il mare di Bjørn Larsson, Sinfonie Mediterranee di Roberto Soldatini e 100 boline di Marianna De Micheli. Mi piacciono tutti e tre molto, mi stanno facendo venire voglia di andare per mare. Volessi iniziare, so che qualche manuale ce l'hai. Anche i manuali. Adesso, posto che qua io poi vado alla ricerca del lupo di mare. Perché allora, qui è se pieno, siamo però... al Salone Nautico, come può chiamarsi un libro? Mi compro la barca. Cioè, guarda, io avrei detto o mi compro la barca o con una colta edotta citazione cinematografica mi faccio la barca. Infatti anch'io, citazione degli anni Ottanta, no? Grandissimo, più o meno del cinema anni Ottanta. Mi faccio la barca, invece mi compro la barca, l'ha scritto Gennaro Coretti e proprio... È un manuale per chi si avvicina proprio alla nautica, ha intenzione di comprare, ma anche semplicemente di noleggiare un'imbarcazione. Quindi parla, per esempio, dei costi medi per ormeggiare una barca, ma anche dei vari problemi che possono sorgere nel momento in cui si deve gestire una barca durante tutto l'anno, perché se abiti, non so, a Milano o abiti a Perugia, non è che la barca te la porti sotto casa, devi naturalmente lasciarla in un porto e tenerla al sicuro per tutto il tempo in cui non la utilizzi. No, beh, giusto anche avere delle indicazioni pratiche. Ci ha portato altri libri, moltissimo. Sai? Dai, facciamo sempre sentire il libro alla radio. Il libro alla radio, vediamo. Copertina rigida. Questa è la copertina rigida di un romanzo che mi è piaciuto un sacco, finto di leggerlo veramente da qualche giorno. Si intitola La solitudine dell'assassino, l'ha scritto Andrea Molesini ed è pubblicato da Rizzoli. Andrea Molesini era quello che aveva vinto il Campiello nel 2011 con Non tutti i bastardi sono di Vienna. Stavolta io ho detto, bah, La solitudine dell'assassino sarà una cosa di serial killer. No, assolutamente, è una storia meravigliosa. È un traduttore, un uomo che di professione fa il traduttore, che riceve dalla direttrice di un un carcere un compito particolare, quella di scrivere la storia di un assassino, di un uomo che è stato in carcere 20 anni, ormai è arrivato a 81 anni, deve uscire dal carcere per raggiunti limiti di età e per buona condotta, è comunque un assassino, è un uomo che ha ucciso, ma porta dentro un grande senso di colpa e quindi, diciamo, attraverso tutto questo viaggio a ritroso nel cercare di scoprire la sua storia, solo nelle ultime pagine si capisce perché quest'uomo ha ucciso e perché, come dire, ha reputato che il carcere fosse la giusta punizione per lui. Che cosa c'entrano il mare e le barche? Beh, all'interno di questo romanzo ci sono diverse pagine fondamentali nello svolgimento della trama, che si svolgono a bordo di una barca a vela, cioè questo traduttore e questo ex detenuto vanno in barca a vela e qui succedono delle cose molto importanti per scoprire appunto i segreti che nasconde quest'uomo che si chiama Malaguti ed è veramente un uomo dai mille segreti, ma anche da, come dire, un eroe della rettezza quasi mentale. Non lo so, ecco, dove c'ero perché per scoprirlo. Perché voi non vedete gli occhi di Alessandra Tedesco che si illuminano quando un libro l'ha conquistata in maniera particolare. Devo dire, La solitudine dell'assassino di Andrea Molisini mi è piaciuto molto. E c'è questo viaggio in barca a vela, infatti pensando, l'ho letto qualche giorno fa, pensando al Salone Nautico, ho detto, questa è veramente una scena, perché sono parecchie pagine, almeno una cinquantina di pagine dedicate a questo viaggio in barca a vela dove ne succedono di tutti i colori. A chi lo consigliamo però? Perché La solitudine dell'assassino è un titolo che a me spaventerebbe, invece abbiamo già capito che non ci sono nulla. Scene assolutamente no, è solo un romanzo di indagine psicologica nella mente di un uomo che ha ucciso e ha un senso di colpa, e nelle ultime pagine si scopre il perché. Lo consiglio a uomini e donne indifferentemente, diciamo dai 25-30 anni in su, perché secondo me possono comprendere meglio le cose della vita. C'è tutto anche dei flashback sulla Seconda Guerra Mondiale, perché quest'uomo ha ucciso per una ragione che si trova nel suo passato. Non ve la posso dire, se no vi svelo le ultime 10 pagine. No, non vogliamo sapere, non vogliamo perdere la sorpresa, però devo dire che mi ha molto incuriosito. Hai di fronte a te un ultimo libro. Un ultimo romanzo, guarda, Casa di Mare, quindi va da sé. L'ha scritto Marco Buticchi, pubblicato da Longanesi. In realtà non è così banale il titolo, cioè non è che parla solo di mare. Il mare fa da sfondo un po' alla storia, alla vera storia del padre dello scrittore Marco Buticchi, appunto, perché il padre è stato protagonista della vita italiana. È stato un dirigente del Milan, è stato un petroliere, aveva creato veramente su un impero durante gli anni del boom economico e poi ha perso tutto al gioco d'azzardo. Ha tentato due volte il suicidio, ormai non c'è più da diversi anni, e Marco Buticchi, che è uno dei fautori, insomma, degli scrittori d'avventura più famosi in Italia, ha deciso di stavolta non di raccontare una storia di fiction, ma di raccontare una storia vera, quindi la storia di suo padre. Quindi è proprio la storia della vera, sua famiglia. La storia vera, il libro inizia con il tentativo di suicidio di suo padre, per il quale poi tra l'altro lui rimarrà cieco, e vedi che in copertina, la famosa copertina alla radio, c'è un motoscafo, insomma, che solca i mari, perché sono nati in provincia di La Spezia, perché il mare comunque fa sempre da cornice a tutta la vita sia del padre che dello scrittore Marco Buticchi, e quindi in questo senso c'è tanto mare in questo libro, tant'è vero che abbiamo invitato poi Marco Buticchi a parlarci di questo romanzo nel Cacciatore di Libri. Domani registreremo qui dal Salone Nautico una perfetto, puntata speciale. Quindi nelle prossime settimane ci dirai anche quando andrà in onda questa. Sì, guarda, te lo dico subito, sabato prossimo andrà in onda questa puntata speciale con Marco Buticchi, registrata qui dal Salone Nautico di Genova, quindi parleremo. Quindi chi passa di qua domani mattina ti vede qui con Marco ci volete Buticchi. Venire a vedere dalle 11:30 siamo qui negli studi di Radio 24 al Salone Nautico, vedete la mia faccia, ma soprattutto quella di Marco Buticchi, che è un grandissimo bell'uomo. Oh, guarda, te lo faccio vedere qui fantastico. Nella parte di copertina, eccolo qua, nella parte di copertina. Sai che ha anche un lido, lui gestisce un lido quindi a Lerici, se non erro, e fa il bagnino, fa anche il bagnino e scrive i suoi romanzi spesso guardando il mare. Più di così, a chi lo consigliamo, Alessandra? Guarda, questo direi da uomini e donne dai 30 anni in su. Uomini e donne dai 30 anni in su, perché ci anche sono... Anche perché magari c'è un pezzo d'Italia. C'è che... un pezzo d'Italia che, soprattutto anni 60 e 70, che chi li ha vissuti o comunque chi li ha freschi nel ricordo dei propri genitori, nel racconto dei propri genitori, può apprezzare di più, perché attraverso la storia di questo singolo uomo veramente si fa un po' la storia dell'Italia, perché si raccontano tanti episodi di quel periodo, ripeto, dal boom economico a tante altre cose. Ultimo consiglio, come tutte le settimane, quello del cacciatore di libri. Alessandra, a parte il podcast, allora, chi si è svegliato stamattina alle 6:30 l'ha già ascoltato, quindi sa già di che cosa parliamo. Preparato. Puntatone, perché parlo dei libri molto molto attesi. Abbiamo un'intervista a Clara Sanchez con il seguito di Il profumo di una foglia, delle foglie di limone, che insomma tutti le stavamo aspettando. E poi abbiamo anche intervistato Ian McEwan, scrittore britannico presente, quello che aveva scritto Espiazione, per esempio. Fantastico. Perché il suo prossimo romanzo verrà pubblicato in Italia a marzo e ci racconta un pochino. E poi Marta, dalla mezzanotte scorsa è in tutte le librerie Harry Potter. Lo sappiamo, Harry Potter. Ricordatevi sempre che è un testo teatrale, non è l'ottavo romanzo, lo dirò fino allo sfinimento, perché tutti mi dicono: ma è l'ottavo romanzo? No, no. È un testo teatrale, può sicuramente assolutamente piacere ai fan di Harry Potter, però non vi aspettate un romanzo, perché sennò rimarrete delusi. È un testo teatrale, quindi sono tutti dialoghi. Si immagina la vita di Harry Potter 19 anni dopo, è sposato, ha 3 figli, lavora al Ministero della Magia, insomma anche lui si è un pochino imborghesito. Speravo un po' più. Tu lo immagini con la valigetta Harry Potter che mi si è imborghesito anche Harry Potter. Grazie ad Alessandra Tedesco, al prossimo fine settimana. Vado a farmi giro in barca. Alessandra, ciao Marta. Meraviglia, noi ci risentiamo tra poco. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. Il sabato del villaggio. E siamo sempre in diretta dal Salone Nautico di Genova, 56esimo Salone Nautico di Genova, un sabato pomeriggio splendido qui a Genova, tantissima gente anche qui attorno alla postazione di Radio 24. Come sempre a quest'ora parliamo di consumi e di nuove tendenze. Non c'è in studio con noi Maria Luisa Pezzali, ma ci ha preparato un approfondimento proprio dedicato al mondo della nautica e non solo, e quindi io evoco e saluto Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Visto che non sono lì con voi oggi, ho deciso di mandarti comunque il mio contributo sul tema della puntata, dal punto di vista dei consumi anche nella nautica. Come in tutti i settori legati alla mobilità e al turismo, si assiste al fenomeno della sharing economy, dell'economia della condivisione, di cui abbiamo parlato altre volte. Quindi si moltiplicano le piattaforme che permettono di affittare, di condividere, di applicare formule di utilizzo smart anche alle barche. Accesso al posto di possesso, lo ricordiamo, è la formula magica della sharing economy. E attenzione, quella che può essere vista inizialmente come una minaccia per la produzione di settore, in realtà non lo è. Basti pensare a come il mondo dell'automotive abbia finalmente capito e stia collaborando con il fenomeno car sharing. Se ci sono le auto in condivisione, perché non le barche? Dunque, perché non pensare a vacanze in barca in condivisione? Questa è stata l'idea di una startup tutta italiana che sta andando molto bene, sta crescendo in modo considerevole, 50.000 gli utenti registrati. È una storia che vi ho già raccontato, ma vi voglio riproporre. La startup si chiama Sail Square, in pratica connette skipper che possiedono una barca con persone che vogliono fare un'esperienza in mare, singole persone oppure gruppi, una specie di Uber delle barche a vela, diciamo così. E allora riascoltiamo insieme Riccardo Boatti, che è il cofondatore di Sail Square. Io e il mio socio Simone Marini abbiamo fondato Sail Square nel 2013, quando ci siamo un po' accorti dell'enorme potenziale che poteva avere la sharing economy e i nuovi, diciamo, media digitali se applicati al turismo nautico. Di fatto, prima di Sail Square non esistevano piattaforme che mettessero in contatto skipper e persone che volevano vivere vacanza, contatto con altre persone, con la natura e fare, diciamo, esperienze turistiche un po' diverse dalle classiche, e invece appunto creando una piattaforma all'interno della quale, a seguito di un processo, diciamo, di accreditamento, gli skipper pubblicano le proprie proposte, proprio come su BlaBlaCar e su Airbnb ad esempio, abbiamo effettivamente, diciamo, creato un nuovo modo per approcciarsi alle vacanze in barcavela, e questo ha fatto sì che un'esperienza che fino a poco tempo fa era veramente molto di nicchia, dedicata a esperti o persone che avevano un portafoglio abbastanza consistente, potesse allargarsi a veramente un po' a tutti, a seconda sia dei gusti di vacanze che uno desiderava fare, ma anche proprio alle possibilità economiche. Dacci un'idea di destinazione e di costi. Allora, le destinazioni, come su tutte le piattaforme di sharing economy, sono veramente tantissime e molto varie, perché le proposte sono create appunto dagli utenti, quindi soprattutto in una stagione estiva il focus è principalmente il Mediterraneo, che è coperto in maniera molto capillare, quindi tutta l'Italia, la Grecia, la Croazia, le Baleari, la Corsica, la Francia, ma sicuramente anche tante mete esotiche, che alcune sono adatte alla regione, al periodo estivo, altre invece sono tipicamente invernali, quindi i Caraibi, le Figi, la Thailandia e altri favolosi posti in giro per i mari del mondo. Safe Square ha come scopo quello di essere fortemente accessibile, quindi di rivolgersi a un nuovo pubblico. Il 60% delle persone che salgono a bordo con Safe Square, da soli o in piccoli gruppi, sono alla prima esperienza in barcavela, quindi questo è un elemento per noi fondamentale, di grande soddisfazione. Sono anche accessibili dal punto di vista economico, partendo da proposte che vanno da 350 a 400 euro a settimana, fino a proposte che possono arrivare agli 800-1000 euro alla settimana. Comunque, in assoluto, tutti i prezzi tendenzialmente più bassi rispetto al mercato, diciamo, del turismo nautico, del 20-30%, e in assoluto molto simili o spesso più bassi rispetto a proposte turistiche analoghe di vacanza al mare, diciamo. E grazie a Maria Luisa Pezzali per tutti gli aggiornamenti sul consumo e nuove tendenze che hanno a che fare anche con la nautica e con la possibilità di andarsene per mare, come abbiamo visto, in tanti modi diversi. Ma questa settimana è stata una settimana particolarmente importante, perché è la settimana delle sfilate a Milano. Abbandoniamo per un secondo Genova e ci trasferiamo perlomeno idealmente a Milano, perché questa settimana è successo di tutto. Abbiamo visto tutte le nuove tendenze in fatto di moda e qualcosa anche a che fare col mare. Come sempre, quando parliamo di moda ci colleghiamo con la nostra Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Marta, e che invidia che sei lì in quella bella luce soprattutto, ma vabbè, si sta bene anche a Milano. Guarda, oggi è meraviglioso, c'è un cielo, una luce fantastica. Tu invece sono giorni che sei chiusa nelle sfilate e l'unica cosa che puoi fare è uscire da una sfilata e andare all'altra. Vabbè, c'è anche gente che fa vite peggiori, però è impegnativo. Giulia, quali sono le cose nuove che ci puoi raccontare, che ti hanno colpito in questi giorni di sfilate? Ma guarda, per esempio ieri c'è stata la presentazione di Keaton, che è questo marchio di abbigliamento maschile di fascia altissima, che però da qualche anno fa anche una parte femminile, e si è parlato anche di questo accordo che hanno siglato di recente con Benetti, che sicuramente avrai sentito essendo lì al Salone di Genova, perché è un costruttore di yacht nato nel 1873 in Toscana, e loro sono molto contenti di questa partnership, perché parteciperanno a tutti i saloni nautici, i loro sarti andranno a bordo degli yacht e proporranno a questi armatori, e in generale sicuramente sono persone con grandi disponibilità, tutto quello che offre Keaton nel su misura. E del resto anche altri marchi che hanno presentato in questi giorni, da Fendi a Loro Piana, hanno una divisione Yacht Interiors, perché si dedicano proprio agli allestimenti personalizzati delle barche, con i loro tessuti, con le loro linee casa adattate alle barche, e questo è veramente divertente, non ci si crede, ma è vero, in maggio c'è il Monte Napoleone Yacht Club. Monte Napoleone è la via del lusso. Non c'è proprio il mare in via Monte Napoleone, cioè, perlomeno l'ultima volta che ci sono stata al mare non c'era. Si passa e fuori dai negozi. Anche perché i navigli sono fuori zona, sì. Fuori dai negozi del lusso ci sono, diciamo, parcheggiati, non possiamo veramente dire ormeggiati, molti yacht, e anche qui per sottolineare, lì parliamo proprio di una fascia molto alta. Monte Napoleone è la quinta via del lusso più cara al mondo e la più cara in Italia, con affitti che arrivano a 10.000 euro al metro quadro all'anno. Quindi appunto parliamo di yacht che sono sulla stessa fascia di prezzo. E poi però anche tantissimi altri marchi che magari non sfilano ma presentano, come Marina Yachting o Pollen Shark, o un marchio che proprio non presenta la settimana della moda, però è comunque un marchio della moda, che è North Sails. Sono marchi che hanno un forte heritage marino e poi hanno capitalizzato su questo, e dall'essere molto tecnici, North Sails addirittura ha iniziato fabbricando vele, sono diventati dei marchi di abbigliamento, perché poi c'è questo grande trend, anche Maria Luisa ne ha parlato credo in passato, di questa sportizzazione della moda, cioè piace sempre di più tutto ciò che ha sostanzialmente la comodità del capo o della scarpa sportiva. Hai visto qualcosa che ti ha colpito in questi giorni di grandi sfilate? Perché io mi sono divertita a guardare i tuoi tweet e le tue foto, appunto, che hai postato sui social network. Ma che cosa possiamo dire così? Non so se si possono già dire delle tendenze in generale, visto che poi quando tu ci dici qualcosa è sempre azzeccato. Io vorrei ricordarvi quando mesi fa ci disse: comprate i pompon, e quest'estate c'erano i pompon dappertutto, quindi prendete sempre nota di quello che dice Giulia. Guarda, proprio mezz'ora fa ho parlato con la direttrice di Vogue UK e ha detto che lei ha sentito un'energia incredibile a Milano e che è molto colpita da questo colore che si è visto su tutte le passerelle, vabbè, a cominciare da Gucci, che è proprio una specie di esplosione. Domani vedremo Dolce Gabbana, credo che non saranno da meno, e ha detto si è stupita perché è un bel modo di reagire comunque a una situazione internazionale che colorata non è, anzi è molto grigia. Però se devo dirti la cosa che mi ha colpito di più, e non c'entra molto poco con la nautica, ma se mi chiedi cosa mi ha colpito di più, è la mitica Lauren Hutton, protagonista di American Gigolo, credo che tutti se la ricordino, ex modella, poi attrice per un breve periodo e poi ha fatto la sua vita tranquilla da ex modella, per l'appunto, deve essere stata una vita bellissima. A 73 anni ha sfilato per Bottega Veneta oggi con la borsa che portava in American Gigolo. Ecco, questo è stato bellissimo da vedere. E poi vicino a lei c'era Gigi Hadid, che è una delle più famose modelle di oggi, anche delle più pagate, però vi assicuro che sfigurava accanto a Lauren Hutton. Tra l'altro so che è stata anche mezza aggredita da un presenzialista delle sfilate, sì. uno di quelli che fanno così sempre un po' contorno, più sì, o meno sì. Fastidioso. È successo ieri, lei aveva intasato un paio di vie con la sua sola presenza, col solo annuncio della sua presenza. Con la sola imposizione esatto. Di se stessa, sì. E insomma, forse un po' mal gliene è incolto, perché ha avuto, ma non ci sono state conseguenze. La mia curiosità è stata, ma non ci sono, come si dice, misure di sicurezza attorno a queste dovrebbero a pensate queste che super VIP. Alcune sfilate addirittura si entra solo con la carta d'identità, devi avere l'invito e la carta d'identità, però insomma qualcosa scappa sempre, lo sappiamo. Poi c'è veramente quando ci sono così tante celebrities annunciate o che magari sono, poi magari non arrivano ma sono annunciate, si creano delle folle anche di ragazzini che impediscono di fatto qualsiasi vera misura di sicurezza. Tenete conto che siamo appunto nelle strade del centro della città, quindi congestionate di loro, congestionate dai lavori tantissimi che ci sono in questo momento a Milano, e poi si aggiunge la celebrity e la frittata è fatta. Ultima domanda, perché anche Alessandra Tedesco mi ha chiesto di chiedertelo: vanno ancora le righe, no? Perché io per venire al mare mi sono messa la maglietta a righe, perché ho detto vado a Genova, ancora possiamo metterle le righe, sì. Guarda, tantissimo, Alessandra ha detto tantissimo, Giulia. Le righe come i jeans non svaniranno mai, le ho viste dappertutto, anche sulle borse, anche sulle scarpe, quindi Alessandra vai tranquilla. Anch'io, guarda, jeans e maglietta a righe oggi, perfetto. Grazie a Giulia Crivelli, ti leggiamo sul Sole 24 ore e ti aspettiamo sempre per parlare di moda al Sabato del Villaggio. Grazie Giulia. A voi, ciao. E noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci ancora con l'ultimo blocco del Sabato del Villaggio in diretta dal Salone Nautico di Genova. Dico ultimo blocco del Sabato del Villaggio perché, come sapete, poi dopo il giornale radio delle 17 ci cambiamo d'abito. No, scherzo, rimango sempre con la maglietta a righe, ho messo la maglietta a righe per venire al mare. Cambiamo la veste della trasmissione perché la terza ora è quella di RadioTube, ma questo è ancora il Sabato del Villaggio, ancora le tendenze. Siamo a Genova, abbiamo chiuso qua dentro il salone da 5 giorni Andrea Ferro. Sono andato a fare un giro ora, obiettivamente sono uscito. Ah, sei uscito? Sì, mi hai mandato a prendere notizie. Sì, anche perché io avevo anticipato, avremmo continuato anche a parlare di sport. Sì, in realtà da cronista io vorrei prendere una notizia, forse oggi qualcuno ce la può dare in anteprima, ma non ce la vogliono dare. Cioè, quanta gente in più c'è rispetto all'edizione precedente? Io so che prima della però fine del salone lo so, però io l'animo del cronista, tu la vuoi subito. Allora io faccio le mie considerazioni, sì, sulla base della mia esperienza. Secondo me siamo abbondantemente sul 30-35% in più, però questo chiaramente sarà smentito, domani lo diranno. Però secondo me, alla luce particolare di quanto sta avvenendo ora, vedi che c'è, peraltro c'è un tempo bellissimo, sì, poi non fare anche caldo come esatto, è stato caldo l'anno scorso, aveva piovuto i giorni precedenti, quindi era c'era un po' di paura. È andato in scena 15 giorni dopo, certo, però adesso perfetto, favoloso, sì, quindi questa notizia, se domani non l'ho presa, vado solo sulla sensazione, comunque tanta gente. Se qualcuno ha ancora intenzione di fare un diretto, patisci il mare, no? Sentivo. No, Alessandra Tedesco, io sto benissimo. Io casomai mi addormento, ma vado bene. Sai nuotare, chiaramente. So nuotare bene. Sai che c'è un salvagente gonfiabile da polso? Ma che rimane solo il polso? No, se per caso uno avesse qualche problema. No, perché sai, solo il polso a galla no, non è bello. No, perché è praticamente sto un dispositivo. Sto mimando alla radio il polso a galla. Sì, sì, infatti no, tranquillizziamo le persone che ti vedono proiettata. Sì, sì, sì. No, perché dato che mi hai detto di andare a prendere notizie, allora io, c'è questo salvagente, sostanzialmente si attiva nel momento in cui uno capisce di non star bene e diventa praticamente un pallone che può sorreggere fino a 150 kg. Beh, ottima cosa. Per non diventare 150 kg puoi fare fitness con una specie di spinning, pedali con la tavola e vai avanti. Ma la domanda è, va ancora di moda pescare? Io sono figlia di un pescatore, di un grande pescatore d'altura, va ancora di moda? Sempre di più, è una tendenza sociale significativa, come direbbero gli statistici. Siamo sicuri? Abbiamo un ospite che magari ci può confermare se è ancora una tendenza all'interno di anche all'interno del salone. Direttore commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna, buonasera. Buonasera a voi, grazie, allora, per avermi ospitato. Ma ci mancherebbe altro, noi qua vogliamo le notizie, vuole anche i numeri Andrea Ferro. Andrea Ferro vuole anche i numeri, secondo me riuscirà anche ad averli. È ancora di tendenza il mare anche come sport? Nell'attesa di riuscire a dare a Andrea qualche anteprima sui numeri dei tornelli, gli do quelli dei pescatori. Senso che però li sapevo già. La tendenza è sicuramente confermata, è sempre in aumento. I dati FIPSAS registrano oltre 1.250.000 praticanti solamente in Italia di questa disciplina sportiva, sia a titolo, come dire, pseudo professionale che amatoriale, quindi sia nelle acque interne che nelle acque in mare. Ce l'abbiamo un appassionato al telefono, ce l'abbiamo Giovanni Savarese, un collega di Radio 24. Mi hanno detto, Giovanni, ce l'abbiamo, ciao Giovanni. Mi hanno detto, io non lo sapevo, che tu sei un appassionato accanito. La verità è che quella è la mia ragione di vita, tutto il resto è occupare il tempo tra una pescata e l'altra. Okay. Sì, assolutamente. Fate sentire. Quindi voi la parlare radio di pesca in acqua interna. Hobby. Sì, assolutamente. Un hobby meraviglioso, ma insomma, potessi pescare come professione professional angler nel biglietto da vista, credo si starebbe benissimo. Lo posso capire. Giovanni, tu dove operi? Dove scappi appena puoi dagli impegni lavorativi? Guarda, io ho due teatri, come dire, principali, invernale o estivo. Ovviamente estivo, essendo napoletano e persona di mare, che però, come dire, sverna in Sardegna quando può, mare assolutamente. Io pratico lo spinning, che è un tipo di pesca che si può praticare sicuramente a mare, ma anche poi d'inverno nelle acque interne, dove pesco finché è stagione un pesce che si chiama persico trota, detto anche black bass, molto americano, e quando invece questo pesce si mette in una sorta di letargo, quindi non vale più la pena andare a pescarlo col freddo, trote, ovviamente trote. Beh, fantastico. E io che pensavo che lo spinning si facesse solo in palestra. Campagna, il salone nautico è una meta anche per gli appassionati di sport e per gli appassionati di mare. Quali sono le tendenze che lei ha visto quest'anno? Ma sicuramente, non per riallacciarmi al discorso di prima, ma la pesca è una di queste. Noi crediamo molto a questo settore perché appunto ha un bacino di utenza molto importante e di estremi appassionati. Lo diceva il collega prima, che ha invertito il dovere con il piacere nella sua ragione di vita, ma così lo è per molti pescatori. Quindi la pesca anche per le aziende espositrici all'interno del salone è un settore molto importante. La pesca è sempre di più, come dire, tecnologica nell'ambiente dei pescatori, viene supportata da strumentazioni molto all'avanguardia, sempre con un grandissimo tasso di sviluppo, e quindi, parlando di tendenze, anche questo mondo, che potrebbe sembrare, come dire, ai neofiti una cosa che si pratica molto sbrigativamente con una canna e un vermicello, come si dice, invece, come dire, ha tutto un suo mondo e una sua componente, tant'è che quest'anno noi al Salone abbiamo ospitato il primo trofeo di drifting al tonno, una cosa molto innovativa nata da un grandissimo pescatore napoletano, non a caso, che è Sandro Onofaro, che ha lanciato questo nuovo format di drifting al tonno, e noi l'abbiamo lanciato per una prospettiva anche di salone nautico, perché vogliamo implementare questa tendenza in modo strutturale all'interno del settore, perché è assolutamente complementare al mondo dell'imbarcazione. La barca viene vissuta dal pescatore come un mezzo straordinario per poter come dire, raggiungere la propria passione, che alla fine è l'obiettivo di pescare un pesce. Quindi in due ore siamo andati dai grandi yacht, magari ricostruiti con la realtà virtuale, agli sportivi, alla pesca, c'è tutto. Posso fare una domanda? Ma certo. A entrambi, ma non c'è meno pesce rispetto a una volta? Provoca un po' più pescatori, meno pesce, o no? A questa domanda non so risponderti di preciso. So che oggi mi hanno raccontato che in questa gara di drifting al tonno hanno fatto molti strike, era un po' disturbato il mare perché c'era, come dicono i professionisti, si erano inseriti una serie di tonnetti più piccoli, per cui i tonni più grandi andavano a cacciar loro invece che a cacciar le esche. Però credo che ovviamente come dire, i fenomeni di pesca intensiva, sia professionale, ovviamente non quella sportiva, ma soprattutto quella professionale, abbiano causato sicuramente una riduzione. Poi lo chiediamo a un pescatore che Giovanni, secondo te, abbiamo pochi secondi, secondo te? Assolutamente sì, nelle acque interne, dove ci sono fenomeni che non in pochi secondi non si possono elencare, ma che hanno portato a un impoverimento delle risorse. In mare ovviamente il pescatore sportivo c'entra poco con l'impoverimento, perché come sapete c'è una filosofia no kill, e soprattutto non impatta anche il pescatore che pesca per, certo, come dire, portarsi il pesciolino a casa giusto per le esigenze familiari. La pesca intensiva ha provocato danni, però sul mare io sono fiducioso. Mare bello, della Sardegna, bello. Dai, concludiamo con la fiducia, mi piace. Grazie a Giovanni Savarese, grazie ad Andrea Ferro per essere stato con noi, e grazie anche al direttore commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna. Ci ritroviamo tra poco.